Vai, vai, vai, vai. Nico Royale, il cantante dell'Appennino, è qua. Rappresenta per Desoland Express. Sana in coscienza. Com'è che fa, com'è che fa? Yo, mi sing again. Tu mi vuoi fermare, ma non ci riuscirai mai, mai. Tu mi vuoi fermare, ma non ci riuscirai mai, mai. Ma che cosa fai? Non ci riuscirai mai. Nico Royale insieme ad MC Cry, dai, vai. Non fermeranno il mio flusso, anche se adesso tu mi vedi distrutto. Ma comunque sai che io ci metto tutto. 5 giorni dormo, 5 ore in tutto. Yo again, e questa qui è la mia strada. Per le buone vibrazioni io c'ho il radar. Ehi, dal mio stereo in casa le porto in ogni posto e brucia come lava. Ehi, la polizia ci vuole fermare. Aprono un caso, vogliono indagare. Che se ne stiano a casa, Desoland Express monta un'intifada. Un capitolo in più dentro questa saga. Rappresento l'Appennino ovunque vada. Yo again. Tu mi vuoi fermare, ma non ci riuscirai mai, mai. Tu mi vuoi fermare, ma non ci riuscirai mai, mai. Ma che cosa fai? Non ci riuscirai mai. Nico Royale insieme ad MC Cry. Adesso sono qua. Tu mi vuoi fermare, ma non ci riuscirai mai, mai. Tu mi vuoi, boy. Tu mi vuoi, boy. Tu mi vuoi, boy. Tu mi vuoi, boy. Tu mi vuoi fermare, ma non ci riuscirai mai. Nico Royale alongside MC Cry.